ma uno dai che lo siete, no, no, ma da una tratta di un fuso, poi lo chiedo, no, che ne siamo comando, no, no, no, no, no, quindi, tranquillo, già li finisce pure, quindi la Puglia. Come dicono che lo sanno come te che altro vanno a rischiare queste cose, voi? Ma se ora mi sono attesi, due su peso, ma poi ci paga anche l'acqua, ci pagami, ci paga anche 30 quintali, altri 50 già va bene, no, mi fa la giusta, adesso fammi la bolla, ma ce la faccio, la mia chiamata tu. Chiamata tu. Non mi ha capito, lui. Dove sta terra? Fatto le 50. Sei a me. Da dove lo io? Ma poi la bolla che mi questa l'esempio, non te la direi a sicuro. Magari poi la bolla che mi questa l'esempio. Che ti hanno già prima di questa fatto parlare. Ci vuoi metti qua per giocare la volontà? E che tu fatto? Andata, non devi parlare, non devi applicare, non devi parlare. Ma in te caso ci devi uso, dove c'è andare a usare la ti devi caricare a mano? Ma può andare da casino? Guardate, non la foresta, te la chiuse, rimane su, ma allora ci ha fatto male. Ah, è la folla. Brani se uso, altro che te la fai su me, che fai? Facciamo lo spirito, ma acqua sette, ma non ti sono stare, dai, dai, ancora, ma ci dietro, ma non ti sono stare, dai, sono figo. Ma che fa che tanto, cazzo, mi piace di più, ma non posso andare da casa. Un cuto che c'è della fasciata, c'hai una pisaia dura che sa metra un suo cazzo e cose, da chi te la sorrisi, non se ne fa niente, già fa bene così. Una porcheria, ora è proprio una porcheria, è bello come tempo male, ma minchia, non la hanno preso, non hanno rubato. Prima di giocare in cazzo di qualche volta, ma all'inverso, prima che ricavi vicino al senso però, Ma invece guardare i orari sul palco, io, un taverna, la voi, ti devono le micriglie a sappellare, la però ti devi lasciare tua setta bolle, ti devi avvolto, e ci pensi, e il taverna piano piano e pettala, lì te la rimane con lui. Qui te ne vede essere gai, è vero? E non so lui che ti ha rettegato bene. Mi dà, ma vede la chiusa, la blu. Infatti il sudacqua è già, usa per me, bella voce, non abbiamo testa, fa a voi. E' bello che c'è verna in mezzo di casa, tipo le tre due, tre su guascione, la etta piano piano, da su tutte, se tipo ne sa, su quanto le barriere, bravo via che sa, tre a voglia. Non si sa già detto un casino. Poi si abitava che manco lui manca metro, 30 metri d'altro, la più orribile, mi spiccolebbe a voi. Ti si era la cerpeo? Cale, cosa ne sono altro? Allora, ma non è che si è già di aver preso parlato di anno tranquillo. Ma no, questo è il suo problema, è una palazza, ma se non potete prendere la sua rimorchia di quel casino. Ehi, se ne sono parlato, senza lo caro freno di un'altra. Ti pretende, sono freno di più rimorchi. Se si fa la dai. Ecco quanto devo consumare lo freno del sovrotto, piano piano, manettina, del carovano, mi sta su sotto, tranquillo. Se mi intendi di vendere, ma mamma la fa male, lui mi rispettoso, non credo che quede parlato un rimorso. No, che non è che frenare va bene, mentre se non frena la già di pinghe, perché a te quando ti le mani tiro ti frena prima il trattore, ma di dietro l'asse. Se frena bene il rimorso già va lenta. Come fai? Andava su rimorchio, si è tutto normale. Altro qua, tranquillo, non è freno che... Ce l'ho, tu mi vuole fare. Ciao ragazzi, metti caso mi defino, cazzo. Ma io mi sono che mi giura, maledetto, cazzo. Mi sei difettoso, mi. Faccia cazzo, come obbliga? Ma non mi viene sopra la forza! Ma le cazzo mi cudi l'altro muro! C'è un rincoglionito, stai invecchiando, cazzo! Ma livello! Ma che cazzo! Ma che cazzo! voi di nuovo, ragazzi, mi ha preoccupato un po' da farlo mai cosa che sono qua scialetta, ho cazzo, oggi mai mi fai in mezzo, ragazzi. Ma no, come avete trattato di noi, io le rotta. Ma è giusto, trattatore. I ciolini, le sfide, le sfide, le sfide, le sfide. Se vuoi fare niente, vuoi andare a retro mancia di lupi nel tuo casa a Beisegu, Thank you.